farsa, compagna vostra. Che per via sono e fantasia. Che voglio bere giù la vita mia, ma non posso più soffrire sta vacia. Dice di cielo a sta compagna vostra. Che per via sono e fantasia. Che voglio bere giù la vita mia, ma non posso più soffrire sta vacia. Resto offerto verso questo mood sentimentale. Mi desto, mi avverto. Soffro in modo irrazionale, un sibilo animale. Non mi diverto affatto e non sono molto esperto. Tra l'altro, adesso cerco un punto di contatto col reale, ma fa male. È incerto il viaggio che intraprendo con me stesso. Di contro, so che dall'assù solo Gesù mi può salvare. E questa è una speranza che è in conflitto fitto con l'età, ma in questa stanza mi vuole implicare. In sostanza, in apparenza, un vegetale sembro. Rientro, scivola parvenza sulla guancia emozionale, brina, sensazionale. Dimmi dov'è l'eroe di stamattina, è lì che lì, un'altra fronte, un'altra spina. Ma il problema a monte non è limpido, frivolo, timido, ci scivolo su. L'uomo con il suo cammino è un mimo, minchine, Marcolino resta un soffio effimero. Dici in cielo a sta compagna vostra, che per via sono e fantasia. Che voglio bere giù la vita mia, ma non posso più soffrire sta vacia. Dici in cielo a sta compagna vostra, che per via sono e fantasia. Che voglio bere giù la vita mia, ma non posso più soffrire sta vacia. Questa vita non è un ciak, non ha la giacca, lo so, spesso mi sfianca. Mi sfrutta fino all'alba, lei mi aspetta sopra l'uscio della porta. È bella se mi tiene rotta e poi mi affronta un'altra volta. Lei mi dà la svolta e me la toglie quando vuole. È concreta sotto le suole, vive dentro ogni rumore con frequenza. Decolle e poi mi crolla addosso. Cazzo non mi molla fino al midollo di ogni singolo osso. Che cosa faccio? Mi faccio di illusioni. Concimo le emozioni con toni come mattoni, stronza. Mi provoca, mi vuole vedere carponi. Mi toglie i momenti, i sentimenti e le emozioni. Dici in cielo a sta compagna vostra, che per via sono e fantasia. Che voglio bere giù la vita mia, ma non posso più soffrire sta vacia. Dici in cielo a sta compagna vostra, che per via sono e fantasia. Che voglio bere giù la vita mia, ma non posso più soffrire sta vacia.